Picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. La montagna vissuta a 360 gradi. Non più di una settimana fa avevamo annunciato la chiusura della stagione di Picchi di Frequenza, ci siamo sbagliati, abbiamo felicemente quindi un'ultima puntata dell'anno 2017, lo faremo senza ospiti, ma all'insegna di una serie di proposte. Abbiamo alla mano tre mappe per le vostre escursioni invernali. Questa è la numero 84 di Picchi di Frequenza. Come annunciato in apertura di puntata, qualcosa di speciale questa volta, almeno spero che lo vediate in questa maniera. L'idea è quella di raccontarvi 5 proposte. Partiamo con una cartina che sto aprendo del 1997, un po' datata ma sempre buona, per escursioni invernali. Quindi siamo nelle Prealpi Lombarde, navigheremo a vista dal Lecchese al Comasco, passando per il Varesotto, il Triangolo Lariano, insomma 5 proposte per le vostre escursioni di queste settimane. Andiamo a incominciare con una gita di livello medio, un'escursione diciamo non proprio impegnativa, però che richiede, a seconda di dove volete arrivare, un pochino di preparazione. Ci si arriva comodamente dalla Bergamasca facendo tappa a Calolzio Corte per comprare qualcosa alla schiscetta della gita, ci si arriva invece dal Milanese passando appunto dalla Statale fino a Civate, a Galbiate e poi insomma dal Lecchese scendendo giù in direzione appunto di Calolzio. Non ci fermiamo al lago di Olginate, ma si sale fino al paese di Carenno, dove si lascia la macchina. Dove andiamo? Se avete presente il Monte Resegone col suo blocco di oltre 1800 metri e i suoi 9 denti, quelli della mandibola amputata al dio Canzio, all'angelo caduto, almeno secondo la leggenda locale, ecco, noi ci dirigiamo un pochino più in basso. Sul blocco, diciamo, che si colloca a sud appunto del Resegone ufficiale, ci sono una serie di rocce abbastanza interessanti. Quella che spicca in maniera maggiore è la Corna Camozzera, subito sotto il Monte Ocone, dove peraltro ha recentemente, non più di un paio di mesi fa, inaugurato una nuova via ferrata. Ecco, partendo da Carenno, c'è un comodissimo sentiero che ci accompagna alla colonia del Pertus. Sostanzialmente partiamo attorno ai 600 metri per arrivare attorno ai 1100-1200. Qui prendono il via due creste. Una è quella che ci accompagna a scavallo tra il San Martino appunto e l'area del Resegone, ed è caratterizzata degli interessanti roccoli di caccia, interessanti non per l'infausta pratica ma per il piacere di questi panettoni terrosi che si affacciano sulle due valli. La seconda opzione è quella invece di salire ulteriormente, ma ripartiamo dall'inizio. Una volta parcheggiati a Carenno, nei pressi o del cimitero o più su, proprio all'apertura diciamo del sentiero vero e proprio, si comincia nel bosco con una traccia ampia, inizialmente molto morbida, e poi che sale appunto per non più di 400 metri. Una volta giunti al bivio, io sono stato al Monte Ocone, diciamo il secondo dei più prominenti, vi conviene cominciare a tenere da parte un pochino di energie, perché lì dopo un breve tratto sulla strada rotabile, ecco, lì invece si sale. Il Monte Ocone arriva intorno ai 1400, quindi non è niente di straordinario, ma permette il primo affaccio sulla Valle Imagna, quindi ad oriente. Perché la Valle Imagna? Perché da qui parte un lungo promontorio che ci accompagna fino alle orribili antenne che si affacciano sulla zona di Pontida della Bergamasca, su cui prende piede anche il Monte Tesoro, il Monte Picchetto. Insomma, se avete voglia di camminare potete farlo tranquillamente. È una gita interessante non soltanto da un punto di vista paesaggistico del panorama, ma perché vi troverete una serie di tappe per andare in direzione delle vecchie fornaci, dei vecchi roccoli abbandonati, delle cave di calce. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. Escursione Carenno Monte Ocone, tappa numero 1. Rapido movimento di carta e qui cambiamo carta e ci spostiamo invece nella più occidentale delle proposte di oggi. Andiamo nel Varesotto. Per quanti di voi ascoltano il meteo di un'altra nota emittente radiofonica dell'Alta Italia, il centro geofisico prealpino è uno dei riferimenti in fatto di proposte per il fine settimana per chi ha bisogno di sapere un pochino che tempo fa nelle Prealpi Lombarde. Dove si trova? In un parco naturale, un parco regionale, e il suo nome è Campo dei Fiori e sovrasta la cittadina di Varese. Noi siamo fermati nei pressi di Comerio Barasso, quindi diciamo costeggiando il lato orientale del lago di Varese. Parcheggiato a Barasso parte uno degli innumerevoli sentieri che vanno sul monte Campo dei Fiori. La vetta è a 1227 metri, un metro più in giù, anche se un chilometro più ad est, l'osservatorio astronomico, e appunto insomma anche quella che è tutta la salita più dolce e più conosciuta, che è quella del Sacro Monte. Noi in realtà in particolare siamo andati al Forte di Orino, 1139 metri, che è forse lo spuntone, non voglio dire di roccia, però diciamo è il promontorio più a occidente, e lo abbiamo fatto per motivi appunto panoramici. E i sentieri sono tanti, il motivo per cui vi consiglio di andare lì è che purtroppo non più di 2 mesi fa, ne abbiamo parlato ampiamente in occasione dei resoconti sugli incendi in Valsusa, anche il Monte San Primo, di cui arriveremo a parlare nel corso della puntata di oggi, e appunto tutta la zona di Luvinate sono state toccate, per cui parecchi ettari boschivi sono stati, se non completamente incendiati, comunque in parte sì, gli alberi sono crollati, e assolutamente toccati dall'incendio. La cosa incredibile è che nonostante le nevi di queste settimane si senta ancora in maniera così forte il profumo, l'odore appunto degli incendi che anche da queste parti hanno inquietato più di una comunità. In particolare noi abbiamo preso il sentiero 12 per salire e l'11 per scendere, quindi andando a costruire anche qui una sorta di anello. Verifico l'altimetria intorno ai 430-450 metri, dove si può lasciare la macchina anche qui sia in paese, ma se volete accorciare un po' si può partire anche qualcosina più su. Entrate in una sequenza di paesaggi boschivi assolutamente curiosa. Si parte con delle pinete morbide nel sottobosco e assolutamente pulite, per arrivare appunto nell'area degli incendi, che è uno shock da un punto di vista del colpo d'occhio, e poi invece comincia la salita. In questo momento, con un pochino di neve, è davvero piacevole perché si può tranquillamente andare fuori sentiero per 2 motivi. Uno è che a causa dei parecchi alberi crollati qualche fuori tappa vi conviene farlo assolutamente per evitare pericolosi scavalchi, ma il secondo è che l'alternarsi delle pendenze offre sempre lo sguardo sulla vetta della montagna, che peraltro è un costone bello ampio. Quindi se volete tentare qualche fuoripista, la cosa è assolutamente alla portata. Fate soltanto attenzione in prossimità della vetta in caso di ghiaccio, qualcosa che è quasi per tutti. Altro dato interessante è che prima di raggiungere la sommità incontrerete la strada militare, l'antica strada che portava appunto al Forte di Orino. Quindi se prima di impervicarvi su per una delle diverse vette avete voglia di fare una sosta, di mangiare qualcosa o semplicemente di scegliere il punto d'attacco, la panoramica strada vi guiderà in una bella giornata ad osservare la provincia di Varese, il lago, il fiume Ticino, e poi ad ovest insomma si spazia con lo sguardo in direzione del Rosa, si può osservare il Monviso, troverete tutto l'arco alpino che si offre al vostro sguardo. Arrivati a scavalco appunto al Forte di Orino, e beh, da lì si può arrivare tranquillamente a osservare il Pizzo Badile, il Cengalo, tutta l'area delle Prealpi Lombarde da cui eravamo partiti, nei pressi del Resegone, il blocco delle Grigne, il Legnone, ce n'è davvero dal Brighton ad ovest fino al Pizzo Tre Signori ad est. Vale la pena perché con i suoi soltanto 1200 e rotti metri è davvero una gita che vi offrirà qualcosa di curioso, perché no, anche uno sguardo su delle Alpi che non conosciamo o che conosciamo meno in direzione della Svizzera. Per la terza proposta di oggi qualcosa di più impegnativo per i più allenati tra di voi, ma niente di eccessivo, ma soprattutto in questo caso lo dico in forma di attenzione, se arriveranno altre nevi come è previsto e come è facile ipotizzare, se non dei ramponi, quantomeno qualche accortezza in più serve oltre ai bastoni e gli scarponi soliti da passeggio extraurbano. Questa volta si sale non tantissimo, perché siamo sempre intorno ai 1500-1600, però si sale di pendenza in maniera importante. Torniamo in provincia di Lecco e questa volta però facciamo tappa a Ballabio con i suoi 700 metri. Come sapete, dopo la rotonda, nota a tutti i conoscitori di Ballabio, bar, insomma il mini market per fare anche qui tappa, è possibile parcheggiare in direzione del Monte Due Mani. Per chi non lo conoscesse, perché purtroppo spesso viene un po' snobbato, dovendo andare col colpo d'occhio o verso il già citato Resegone o verso il blocco delle Grigne, ecco, proprio nel mezzo invece il Monte Due Mani offre proposte per tutti, più semplici dal lato di Morterone, quindi appunto dalla Bergamasca, un pochino più impegnative invece dal lato lecchese, in particolare da Ballabio. Il sentiero 30 è quello che abbiamo scelto, quindi siamo a Ballabio Superiore per quanto riguarda l'attacco. Comincia subito su un sentiero agile, ma che ricorda nelle sue affermazioni rocciose appunto il blocco delle Grigne. Il sentiero si inoltra nel bosco per 300-400 metri fino ad un rifugio di cui in questo momento, lo confesso, mi sfugge assolutamente il nome. Di lì in poi si sale e la salita si fa impervia davvero, perché nell'arco di un 45 minuti di ascensione, per non più di 2 ore totali, andando veramente di buon passo però, si arriverà in vetta. Ecco, la seconda parte della salita ha qualche punto esposto e in questo momento credo che ci sia già un po' di neve, io l'ho fatta non più di un mese fa. Vale la pena intanto perché in vetta c'è un piccolo bivacco che vi proteggerà dal vento nel caso in cui andiate in una giornata limpida ma un pochino esposta da questo punto di vista. Ci sono tante belle caprette che verranno a rubarvi del cibo, non abituatele troppo. C'è una ferrata per i più sportivi che appunto lungo i tornanti che segnalavo, che segnano il passo tra Ballabio e il Morterone, parte, non è semplicissima ve lo dico, ma soprattutto dietro la nota croce di vetta ci offre una seconda possibilità il Monte Due Mani, perché viene immediato sostanzialmente dopo una tappa per il pranzo andare allo Zucco di Desio, sì, quell'ardito Desio, quello noto. La proposta che vi faccio è quella di non scendere dal sentiero d'arrivo, dal numero 30, ma di portarvi sul 31, qui ve lo annuncio, si va in lunghezza. Il versante nord, che è molto più morbido di quello ovest, vi accompagna in direzione di Foppa e del Monte Tabor attraverso anche qui una sequenza di boschi, uno diverso dall'altro, di foreste assolutamente apprezzabili, con un cascame di foglie dai colori assolutamente eccezionali. C'è qualche cascata, c'era ormai no da far castagne, però probabilmente troverete un po' di ghiaccio, quindi anche qui attenzione, nonostante le pendenze siano più agili, si allunga come dicevo di qualche chilometro, anche perché l'arrivo del sentiero 31 è nei pressi di Balisio, quindi per quanto riguarda i 2-3 chilometri di strada provinciale che vi toccano per tornare a Ballabio, se non avete voglia di farli a bordo strada, dove ci sono dei bei campi ma le auto scorrono piuttosto velocemente, vi consiglio vivamente di provare a scroccare un passaggio in auto. Intanto io cambio nuovamente carta. In questo caso sarà la Compass 91, non per fare pubblicità, visto che non ce ne viene in tasca niente, ma questa abbiamo. Nelle gite che mi concedo insieme a un po' di soci Spesse volte, proprio a scavalco della zona che separa i due rami del lago Comasco, appunto il Comasco e il Lecchese, viene ignorato il triangolo lariano. Io invece, a me piace immaginarci come i massi erratici nella fionda rovesciata del triangolo lariano, e quindi abbiamo fatto a tappe non perché sia impossibile, ma richiede 10-12 ore di cammino, quindi anche qui forse non è l'opzione migliore, quantomeno da un punto di vista stagionale, è la dorsale lariana. La dorsale lariana è quella che parte sopra Como, nei pressi di Brunate. Occhio perché i tornanti in quel caso sono piuttosto stretti e quando passano i bus la cosa si può fare, può essere motivo di ansia per i vostri piloti, altrimenti c'è anche una teleferica, però non l'ho mai utilizzata, non so quanto costi. Insomma, da Brunate si parcheggia nei pressi del Faro Voltiano o un pochino più giù. Ecco, lì comincia appunto la dorsale del triangolo. È una sequenza di panettoni terrosi. Si parte dai 1100-1200, dei monti Boletto e Bolettone, che si affacciano in particolare sulla pianura, e si entra poi nel cuore delle Prealpi. Come vi dicevo, la prima tappa che ci siamo concessi è stata la Brunate, Boletto, Bolettone, sentiero curioso, non soltanto perché lungo il sentiero di cresta, col sentiero che passa precisamente, sul culmine, con gli alberi che crescono appena ai lati, è possibile dare uno sguardo appunto sia a nord che a sud, ma assolutamente interessante per chi di voi, qualcuno ci sarà anche, che non ha voglia di fare sbattimenti esagerati e offre quindi questo sentiero la possibilità di tagliare, di mozzare tutte le vette per tenersi sì in quota per arrivare al bolettone per pranzo, ma senza eccessivi sforzi. In ogni caso, lo dico, la pendenza in questo caso è davvero dolce. Un'ottima occasione sia da un punto di vista paesaggistico, in questo caso le montagne sono decisamente più spoglie che nelle proposte precedenti, però dal Monte Uccellera al Tre Termini, il Boletto con i suoi 1236 metri, eccetera, fino al Bollettone appena più alto, 1317. Ce n'è per tutti i gusti. Peraltro, l'apertura di questo sentiero, anche se credo che in questo periodo sia chiuso, è nei pressi del rifugio CAO, il Club Alpino Operaio, che prima dell'APE, di cui 100.000 volte abbiamo parlato, fu la prima organizzazione alpinistica popolare del nostro paese. Questa è una nota di curiosità di cui si può fare a meno, ma è che è sicuramente un piacere condividere con voi. Per andare invece sulla seconda delle vette più interessanti del nostro triangolo lariano, dobbiamo partire da un punto differente. Siamo nella zona di Erba, quindi se arrivate dal Lecchese o dal Milanese, nei pressi di Civate, si esce dalla statale e si va con la provinciale che via Canso ed Asso ci accompagna nel cuore del triangolo lariano. Non arriviamo fino al Ghisallo, perché nel nostro caso siamo partiti da Caglio, quindi il ripasso è Canso, Asso, tornanti di Rezzago, e Caglio è una frazione lì vicina con un ampissimo parcheggio. La nostra meta è stata il Monte Palanzone, 1436 metri, un importante mausoleo di vetta, una piacevole escursione in due tempi. La prima nel cuore del bosco, e anche qui non mancheranno gli ungulati, non mancano assolutamente le specie avicole, ce n'è davvero per tutti i gusti. Con lo sguardo proiettato appunto in questo caso sul versante est del triangolo lariano, quindi sui Corni di Canso, il Monte Rai, il Cornizzolo, ce n'è anche qui di ricchezza. E la seconda parte invece è tutta in quota, quindi nel cuore appunto di questa dorsale. Finalmente siamo oltre i 1300 metri di dislivello e anche qui si susseguono una serie di creste, questa volta vi tocca farle, tra cui ricordo il Monte Pianchetta 1243, il Monte Bull e poi finalmente il Palanzone. Il Palanzone è piacevole perché è una montagna con doppia cresta. Prima di arrivarci c'è tra l'altro un boschetto veramente suggestivo, oserei dire bucolico. E in vetta tira vento quasi sempre, però l'affaccio è a 360 gradi su tutte le montagne circostanti. Ce n'è soltanto una veramente vicina che si fa convocare, si fa chiamare, si fa cercare e chiede di andare a trovarla, ed è il Monte San Primo, la vetta più alta del triangolo lariano. Grazie. gli stacchi musicali non guastano mai la nostra trasmissione, anche perché stavolta vi ho propinato una ventina di minuti tutti parlati, provo ad alleggerirli con questi, spero vi piacciano, è un po' una puntata da ascoltare e riascoltare, nel senso che le indicazioni, mi rendo conto, sono rapide, ma sono poco più che delle suggestioni, anzi lancio anche una piccola sfida: se qualcuno in queste settimane ha fatto una gita nuova, queste sono tutte proposte che vi faccio di luoghi che non tanto che non conoscevo, ma insomma da cui non ero mai salito, almeno da queste vie di ascensione, quindi se qualcuno di voi ha voglia di condividerne o registrando un breve contributo di 2-3 minuti e inviandolo alla pagina Facebook di Picchi di Frequenza, per esempio, insomma segnalandolo con un messaggio diretto su Twitter all'account @abuzzo3, io sarò felice di ripubblicarle in trasmissione. Se invece fate i timidi e proprio non avete voglia di registrare un parlato per poi risentirvi sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto, possiamo anche fare un esercizio diverso e vi chiedo di mandarci un breve racconto, una suggestione, anche semplicemente la proposta di parlare di una montagna che magari conosciamo possiamo trovare qualcuno che può raccontarvi nel migliore dei modi e che voi aveste nel vostro cassetto dei sogni d'alta quota. Come dicevo, l'ultima delle proposte di questa giornata, e che poi vanno a chiudere anche questa trasmissione un po' speciale, che spero davvero possa accompagnarvi nel cuore della pausa delle festività, è al Monte San Primo, 1686 metri, quindi la vetta più alta, il sasso nella fionda del Triangolo Lariano. Questa volta ci hanno portati una punta più avanti, il passaggio obbligato è sempre quello per il Triangolo Lariano, quindi Canzo, Asso e poi fino alla Madonna del Ghisallo, quella nota per la protezione dei ciclisti e delle loro avventure a due ruote. In realtà si lascia la macchina appena più su della Madonna del Ghisallo, svoltando in direzione ovest per l'Alpe del Piano Rancio. Noi siamo gente a cui piace partire dalla bassa, quindi solitamente cerchiamo di non portarci così in alto. L'Alpe del Piano Arancio è a quasi 1000 metri, che sono sostanzialmente quasi un record per noi altri. Siamo a Magreglio, quindi, per la precisione, e da lì si parte con un sentiero che sostanzialmente è d'avvicinamento in direzione del Monte Poncive, che è il primo punto di cresta con i suoi 1453 metri. Il sentiero è il numero 16, è un sentiero inizialmente fatto di sassi incastonati e poi all'aperto, e che poi si inoltra nel bosco. È veramente leggero, è una cosa tranquilla anche per questa stagione. Tutto sommato si sale comunque di 450 metri, quindi tenete presente che la prima parte del sentiero è tutta sul versante est, appunto dalle pendici del Monte Poncive, che poi si eleva ancora di un centinaio di metri. Arriva invece la dorsale panoramica, quindi aperta sui due fronti, inizialmente in direzione nord-sud, proprio con lo sguardo proiettato verso il blocco del Palanzone. Noi in realtà invece giriamo subito verso quella che sarà la nostra destra, quindi verso ovest, per la cima del Costone. Qui ci sono due possibilità: una carrozzabile in terra battuta un pochino più bassa, che guarda soltanto a sud, oppure la cima del Costone vero e proprio, che è il sentiero di vetta più diretto. Qui c'è da fare qualche su e giù in più, quindi se siete stanchi o meno allenati ve la sconsiglio, però da un punto di vista panoramico è tutta un'altra cosa. Se volete sapere la mia, fate quella semplice all'andata, quindi sentiero panoramico della dorsale all'andata e cima del Costone al ritorno. La vetta del Monte San Primo è appunto la più panoramica del Triangolo Lariano, è uno sguardo ineguagliabile sul tutto il blocco, il massiccio che sovrasta l'area di Bellagio in direzione delle montagne che tante volte abbiamo conosciuto in occasione delle oltre 80 puntate di Picchi di Frequenza. C'è il Pizzo di Gino, per cui in una delle prime puntate conoscemmo il gigante, che poi si è spostato a Uschione, anche in questa avventura lo abbiamo seguito e narrato. C'è il Rifugio Menaggio sotto il Monte Grona, c'è il Blocco delle Grigne, insomma ci sono tutte le montagne che potete immaginare, tra cui anche il bellissimo come dire, si affermano in maniera assolutamente inedita anche le montagne della Valmasino e più su della Val Chiavenna. Insomma, ce n'è davvero da stare lì a bocca aperta a non finire. Noi l'abbiamo fatto in una giornata piuttosto chiusa e quindi era un po' curioso vedere sopra le nubi, sotto invece tutto aperto e luminoso. Non era forse la giornata migliore, ma è stato assolutamente affascinante anche qui conoscere purtroppo un altro degli incendi, lo citavo in apertura, probabilmente, che in maniera molto forte hanno colpito le Prealpi Lombarde. Qui è solo il versante sud, anche qui ad essere stato colpito in maniera molto forte. In realtà non ci troviamo in un bosco fitto, quindi l'incendio è assolutamente esteso, ma ha più il carattere, insomma, di un incendio di cespuglie e di tante troppe piante morte o danneggiate. D'altra parte è assolutamente suggestivo e segnala quanto da una parte la disattenzione, più spesso purtroppo motivi più preoccupanti, sia di piromani X sia di motivi economici legati a una serie di fatti che tante volte abbiamo raccontato con la nostra rassegna stampa in materia di protezione degli incendi, hanno toccato in maniera così forte anche le nostre Prealpi Lombarde. Saremmo voluti scendere al rifugio Martina per il pranzo, anche se eravamo organizzati, vi ricordo che d'inverno è sempre meglio avere un panino da parte, però la strada era completamente ghiacciata e non tutti erano attrezzati, quindi abbiamo ripiegato appunto sulla cima del Costone, che anche questa toccata da vento forte ci ha accompagnato al Monte Poncif. Da lì si può cambiare sentiero e, rimanendo appunto sulla dorsale principale, la DTL, si scende a Magreglio da un altro sentiero, passando dal rifugio Anna Maria, il sentiero 16. È un altro dei rifugi storici delle Prealpi, vale la pena vederlo perché l'atmosfera è abbastanza conviviale, anche se purtroppo ormai è già in una zona di villette, siamo sostanzialmente giù dalla montagna, però per un caffè e un GNP di fine gita è un qualcosa da non lasciarsi scappare. Non so se questa puntata vi sarà piaciuta, se vi è sembrata lunga, un po' monotona, o se invece può essere veramente l'occasione per ampliare la comunità, più che la community di Picchi di Frequenza. Però rinnovo l'appello, se avete voglia anche voi di condividere qualcuna delle vostre ultime 5 gite, io l'ho fatto in questa maniera qui, sappiate che i microfoni sono a vostra disposizione, che se avete voglia di mandare solo un testo potete farlo, e i riferimenti sono quelli di sempre. Era la puntata numero 85 di Picchi di Frequenza, in conduzione Abo, Alberto Di Monte. Oggi non c'erano con noi Martino e Luca, che però vi stanno preparando delle chicche per il rientro a metà gennaio. Dove ci trovate per recuperare l'archivio delle puntate e tutto quello che, insomma, non vi potete godere in queste settimane di sosta? Anzitutto all'indirizzo amonte.info, su Spreaker, altrimenti sul social network blu alla pagina Picchi di Frequenza. Se non siete voi a fare qualche invito e qualche condivisione, so che non è bello dirlo, non vedo chi altri, altrimenti all'account su Twitter @abuzzo3. Non ci risentiamo venerdì prossimo, ma ci sentiamo a metà gennaio, di venerdì alle ore 20, sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.